Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Giustizia per Roberta, scriveva Fabio Di Lello sul suo profilo Facebook. Giustizia sommaria, alla fine se l'è fatta da sé. Ha aspettato all'uscita di un bar Italo Delisa, il giovane di 22 anni che l'estate scorsa in auto aveva investito e ucciso sua moglie Roberta Smargiassi. Nelle immagini del sito zonalocale.it, il luogo dell'omicidio, in viale Perta, a Vasto, provincia di Chieti. Qui Italo Delisa era arrivato in bicicletta ed è stato ucciso da 4 colpi di pistola. Fabio Di Lello subito dopo si è allontanato, ma non è fuggito, non ha voluto far perdere le sue tracce. È andato dritto sulla tomba della moglie Roberta, dove ha abbandonato l'arma dentro una busta di plastica. Qualche ora dopo si è consegnato ai carabinieri. Una vendetta, un odio che Di Lello aveva covato per mesi, fino a decidere di uccidere quel ragazzo che passando con il semaforo rosso aveva travolto e ucciso sua moglie in motorino. Roberta quella notte di circa 6 mesi fa morì poco dopo ricovero in ospedale. Aveva 34 anni e si erano sposati da pochi mesi. Queste sono immagini di una fiaccolata organizzata a Vasto in ricordo della ragazza, ma il conforto degli amici a Fabio Di Lello è servito poco. Questo è l'episodio che oggi campeggia in prima pagina di quasi tutti i maggiori quotidiani nazionali. Vendico la mia roba, uccide il giovane che travolse la moglie. Travolse sua moglie, dopo 7 mesi lo uccide con 4 colpi di pistola. Uccide l'uomo che investì sua moglie. Per Fabio c'era solo quella tomba e l'ex bomber diventò giustiziere. Forse ci sono molti elementi che danno a questa vicenda di delitto premeditato, sicuramente lucidamente eseguito nella provincia italiana, dei toni che probabilmente questa mattina vorrei approfondire e condividere con gli ascoltatori. La storia ridotta all'osso è essenzialmente questa: una giovane donna in motorino viene travolta da un automobilista che passa con il rosso e da lì a poco muore. L'automobilista si ferma, chiama i soccorsi, non tenta né di fuggire né di eludere le sue responsabilità. Non c'erano i termini per una sua carcerazione, è stato incriminato di omicidio stradale, poi entreremo nei dettagli, e comunque in attesa della definizione processuale della sua storia, naturalmente girava liberamente per Vasto. Il marito della vittima di Roberta Smargiassi, Fabio Di Lello, un giovane esuberante, un calciatore, un centravanti, non si dà pace, secondo lui la giustizia non è efficiente, è troppo lenta. Organizza delle fiaccolate, organizza un movimento popolare di richiesta di giustizia per sua moglie, ma evidentemente questo non lo soddisfa. Il tarlo dell'odio verso colui che ha ucciso sua moglie, è anche comprensibile che potesse essere colpito profondamente, era sposato da pochi mesi, erano 2 bei ragazzi, una vita che sta iniziando, sterminata e uccisa per un gesto a cui spesso abbiamo dato un significato parlandone a questi microfoni, l'omicidio stradale. Di fronte all'opinione di molti, che è una casualità, nulla di assimilabile a un omicidio volontario, l'omicidio stradale in questo caso lascia un vulnus profondo, una ferita profonda nei parenti della vittima che non se ne danno ragione. In questo caso c'è da dire che la vittima Italo Delisa, che è stato ucciso ieri con 4 colpi di pistola, non era né in stato d'ebbrezza né sotto stupefacenti, aveva semplicemente compiuto un'imprudenza che la vittima ha pagato carissimo, la donna ha pagato carissimo e anche lui ha pagato molto caro. L'ultimo corollario che dà a questa vicenda un sapore quasi epico, quasi rituale, dopo Fabio Di Lello, da aver sparato a Italo Delisa, ha messo la pistola in un sacchetto di nylon e l'ha posata sulla tomba della sua sposa morta, tomba su cui andava ogni giorno in raccoglimento. Molti hanno associato questo gesto a un riferimento cinematografico, perché sul profilo Facebook di Fabio Di Lello c'era la foto di sfondo di Massimo Decimo Meridio, Il Gladiatore, un film che a suo tempo del 2000 fece epoca, diventò un mito, lo spagnolo che passa tutta la vita per vendicare chi gli ha sterminato la famiglia. Quello era il riferimento, non lo possiamo sapere, non abbiamo gli elementi, ma abbiamo elementi sufficienti per fare una riflessione. 800240024, tra poco. Melog. Cronache meridiane. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. È in questa frase probabilmente la molla, l'emulazione, l'assimilarsi al personaggio di fantasia che dedica alla vendetta la sua esistenza. Non lo so, non voglio esprimere io giudizi, anche se mi scrive una signora, abbia un po' di pudore, dottor Nicoletti, un minimo di buon gusto, ne abbiamo bisogno. Non so in cosa dovrei dimostrare il mio pudore e il mio minimo di buon gusto. Parlo di un episodio che oggi è il primo episodio di cronaca trattato nei giornali italiani e cerco di trattarlo con un punto di vista differente rispetto al semplice raccontare la storia. E vedo subito il senso di perché ho fatto questa trasmissione. Primo sms che mi arriva. Sempre più gente dovrebbe fare così davanti alla giustizia ingiusta, lenta e fannullona. Nicoletti, bisogna fare giustizia da soli, altro sms. Quell'uomo ha fatto benissimo, un eroe. Sparargli è stato poco, io avrei fatto peggio, ma non mi sarei costituito. Avrei fatto in modo di farla franca. Ultimo messaggio. È per questo che i maschi sono così scarsi. Ste cose non le fanno mai. Claudio Risei, buongiorno. Allora, il professor Claudio Risei, uno psicoterapeuta, psicoanalista, saggista, l'ultimo libro che ha pubblicato è Sazi da morire, malattie dell'abbondanza, necessità della fatica, edizioni San Paolo, ma è spesso stato un nostro interlocutore, un saggista rispetto proprio a questa idea della scomparsa del senso della mascolinità nella nostra società. I maschi selvatici, quelli che ancora hanno un rapporto diretto con la natura, con le scaturigini più profonde del senso della vita. C'è qualcosa secondo lei in questa vicenda? Non entriamo nell'aspetto giudiziario perché non ci compete, ma nell'alone che lo circonda, legato, non so, a un recupero di un senso epico, di un farsi vendetta, dell'essere il maschio che si trova al di sopra di tutto, tutti, o anche lei, diciamo, pensa che forse non bisogna incentivare questa deriva verso il farsi giustizia da soli, mostrarsi maschi in quanto vendicatori capaci di prendere una pistola in mano e uccidere? No, io credo naturalmente che non ci si debba fare giustizia da soli, anche perché non siamo soli, siamo in una società che deve fare giustizia. Noi paghiamo le tasse anche per questo, è un argomento miserabile, ma è una delle ragioni dello Stato quella di fare giustizia e di far sentire ai cittadini che la stai facendo. Allora, io credo che in questa vicenda non ci sia un sentimento irrilevante verso la giustizia, perché questa persona ha fatto una cosa terribile, ha ucciso un uomo, un giovane uomo come lui, però ha poi dato segno di un senso di responsabilità, perché ha lasciato la sua pistola sulla tomba della moglie e si è costituito. Cioè, è un'azione quasi rituale, come se avesse assolutamente, è un aspetto proprio di rito espiatorio nei confronti di qualcosa che hai commesso, che però ha a che fare, aveva un senso, perché lo metti lì sulla tomba della persona che ha contato di più nella tua vita e che ti ha portato, la cui fine violenta ti ha portato a questo, quindi la sacralizzi questa vicenda, è un sacralizzarla molto arcaico, molto primitivo. Ma noi dobbiamo tener conto, ecco, questo effettivamente è il collegamento con i miei lavori sul maschio selvatico, che l'uomo ha un lato primitivo indistruttibile, perché noi siamo anche la nostra storia, quindi non possiamo essere solo bravi, civilizzati, stoici. È anche interessante questo riferimento cinematografico, perché sarebbe una vicenda, non si sa se vera o reale, ma è commessa sotto con l'imperatore Marco Aurelio, che era un grande storico, un grande filosofo. che non avrebbe mai fatto una cosa di questo genere. Vede che più parliamo più mi convinco che in realtà c'era una consapevole collocazione in una dimensione epica di questo suo gesto, per questo ho chiamato lei a parlarne questa mattina. Credo di sì, credo che anche me, anch'io sono stato molto colpito perché c'è una cornice etica molto problematica, perché quest'uomo ha giocato comunque la sua vita su anche il giocatore che ha commesso questo omicidio, su questo fatto, però c'è una cornice etica, morale, c'è una richiesta di senso in tutta questa vicenda, mossa questa ricerca di senso dal fatto che quest'uomo attraverso con questo omicidio, perché è stato un omicidio stradale, aveva perso il senso della propria vita, che era questa unione, questo matrimonio a cui ha attribuito un'enorme importanza, che in cui ha molto creduto, che era la sua famiglia, come per il condottiero romano brucia la casa di quelli che hanno distrutto la sua famiglia, e quindi per ritrovare il senso deve fare questa cosa. Perfettamente consapevole, tra l'altro questo Risèque la pagherà molto cara, perché è un'arma, quella era un'arma che si era procurato illecitamente, ha ucciso una persona con premeditazione, cioè lui sa benissimo da questa cosa non uscirà vivo, fra virgolette, la pagherà e non avrà attenuanti, quindi per lui nella bilancia dei suoi valori ha detto il mio sacrificio vale l'atto di giustizia che faccio. Fermiamoci solo un secondo, voglio sentire qualche ascoltatore. Massimiliano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Il mio primo pensiero è che negli ultimi anni vedo altri esempi, i due signori di tanti anni fa del Gorgo del Monticano, pestati a morte, la settimana scorsa mi sembra nel Bresciano, idem di quel ragazzo di 35 anni. E cosa rischiano queste persone qua? Chi passa col rosso uccide una persona, sì, hanno messo l'omicidio stradale, ma un anno e mezzo, due, tre, io vorrei vedere delle vere pene, perché fra un po' queste si trasformano in medaglie. Sì, non è stato un omicidio volontario, una persona che ha fatto l'errore di passare col rosso, non è che nella sua mente voleva uccidere una persona. Guardi, io non prendo una multa dal 2002 per divieto di sosta, ok? Prima di passare col rosso ci penso, anzi non ci penso, mi fermo. Estremizzo la domanda, vale la pena di essere fucilato se uno passa col rosso prendendosene poi tutte le responsabilità e anche uccidendo una persona? Benissimo. Con estrema colpa? Ma io le voglio vedere queste pene, le vorrei vedere, è che ormai in Italia siamo talmente logori che fra un po' gli diamo anche le medaglie a questi qua. Perché li vediamo che girano per i paesi, hanno ucciso persone, hanno fatto di tutto e la gente è stanca. La gente quando è che arriva a fare queste azioni, come questo signore qua che ha ucciso chi gli ha ammazzato la moglie? Perché siamo una pentola a pressione e non ne possiamo più. Lei dice, allora, c'è un livello ormai di insofferenza talmente alto che tutto quello che io ho registrato spesso in trasmissione, che molte volte si riversa nelle ondate d'odio in rete, comincia a verificarsi, attuarsi sullo stato pratico. Quello che dice il professor Risèque nel suo pezzo sul Giornale Oggi, dice noi coltiviamo dentro di noi e gestiamo l'odio finché possiamo, poi a un certo punto esce fuori, quando esce fuori è lui che ha il sopravvento su di noi. Ci fermiamo un istante, mi sembra che il discorso si sta facendo articolato e è perlomeno nel livello di civiltà che ci tenevo a mantenere. Ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Anch'io me lo ricordo, sa. Lei, signor Vivaldi, è il testimone meno attendibile, perché essendo il più direttamente colpito potrebbe lasciarsi ingannare da un comprensibile sentimento di rivalsa. Faccia quindi bene attenzione prima di parlare. Amalia, sta tranquilla che non scappa, sai. No, non mi scappa. Adesso me ne devo andare, poi te racconto tutto, devo andare al ministero che tardi, sai. Che bevi la medicina, mi sa. La faccia gliela spaccata questo pezzo qui! Viva di Giovanni, fu Matteo! Col 800 24 0024, vi faccio ascoltare una parte di un altro episodio, di un altro punto di vista, in cui una persona arriva a uccidere chi gli ha ucciso il figlio. È il borghese Piccolo Piccolo, un personaggio terribile interpretato da Alberto Sordi, un piccolissimo impiegato grigio a cui viene ucciso durante una rapina l'unico figlio, rintraccia il rapinatore, lo sequestra, lo mette in una baracca, lo strangola lentamente con un filo di ferro, facendolo morire di fronte alla moglie paralizzata. Questo per farvi capire che l'autovendetta, la vendetta quando l'uomo diventa giustiziere perché non riconosce nella giustizia degli altri uomini, dello Stato che lo rappresenta, motivi sufficienti per placare quella che è la sua ferita, è non soltanto il gladiatore, l'uomo forte, il combattente, l'eroe, anche il piccolo borghese che riesce a fare lo stesso gesto. Questo lo dico per le tante persone che mi stanno scrivendo, ma era prevedibile, lo prevedevo questo, e non voglio fare il buonista. Molti mi dicono, se fosse successo a te che avresti fatto? Non lo so, non so dirlo, potrei aver fatto anche la stessa cosa. Non trovo in me elementi sufficienti per dire di essere capace ad arginare l'odio profondo e inarrestabile come non è riuscito ad arginarlo questa persona, quindi non mi tiro fuori. Leggo soltanto, senza giudicare. Sempre più gente dovrebbe fare così davanti alla giustizia ingiusta, l'ente fa nulla. Questo l'avevo detto. Un altro mi dice: si è sacrificato per impedire la testa di cazzo che ha investito la moglie che uccidesse per distrazione altre persone. Quindi lui si è fatto giustiziere anche in nome degli altri. Poi avanti ancora, ipocriti, avrei fatto la stessa cosa, mi piacerebbe vedere cosa avrebbe fatto lei se fosse capitata la stessa cosa. La vendetta non è giustizia. Sono andato a votare Nicoletti, 16 mesi di pena sospesa per omicidio stradale, ha fatto bene. Poi ancora persone dicono non ha fatto bene, dice lo Stato ha abbandonato quell'uomo al suo dolore, quindi ha fatto bene. Un altro signore mi dice che ha fatto lo skip per tutta la vita, ora fa il boscaiolo, capisce, approva quest'uomo. Quando odio i magistrati, ranci di individui che non pagano mai. Ecco, l'insieme del pubblico è più portato verso il consenso, verso assolvere questo omicida, perché in fondo ha fatto qualcosa che avrebbe dovuto fare lo Stato. Ha consegnato una giustizia estrema a colui che gli ha ucciso la moglie. Giorgio, buongiorno. Sì, Gianluca, buongiorno. Veramente, va bene, lei lo sa, lo dicono gli ascoltatori, lei ha una sapienza emotiva e sociale incredibile. Ma adesso andiamo al caso, Giorgio. Sì, il caso è questo, cioè il prologo è simile, l'epilogo è completamente diverso. Questa persona, un mio amico che è un edicolante di quartiere, è stato massacrato per dei futili motivi, che poi inerenti a problemi da lei trattati, un cane che gli ha fatto la pipì sulla cosa, insomma aveva fatto un piccolo commento e questa proprietaria di cane lo ha massacrato nel vero senso della parola. Cioè, non è accaduto molto tempo fa, io avevo letto questa notizia. No, è vero, non molto tempo fa, diciamo qualche mese fa. Sì, sì. Qual è il problema? Prima dell'estate o una cosa del genere. Sì, bravissimo, prima dell'estate. L'epilogo qual è? Che siccome questo ragazzo gira liberamente nel quartiere, ha continuato a girare, questo edicolante è impazzito. Cioè il morto è stato lui, perché è completamente uscito fuori di senno. Ha venduto l'attività, ha dei problemi fisici incredibili perché la mascella non si rimette a posto, perché la spalla, perché le costole. Quindi forse era stato massacrato di botte da un ragazzo perché questo gli aveva detto non fargli fare la pipì sui miei giornali, ecco, era questo. Sì, beh, ecco, una persona molto mite, quindi immagino che l'avrà detto con molta cortesia, come era il tipo, e però poi la vittima è stata lui, perché lui è completamente uscito fuori di senno, oltre a tutti i problemi di natura fisica. Dico, forse questa persona in qualche modo ha impersonato un desiderio veramente nascosto, come dice lei, di molti. Uno si sente vittima inerme di fronte a qualcuno. In questo caso era un atto molto più diretto, è stato picchiato, massacrato senza nessuna ragione. Ma nella stessa maniera, sì, nella stessa maniera questo uomo sentiva ingiustamente reso vedovo da una persona. Immagini quanti di questi casi ci sono che non finiscono sulle cronache perché non succede apparentemente nulla, però questi sono rovinati chi psicologicamente, chi economicamente, questo in entrambi i casi. Voglio dire, qua è stata manifestata il problema, però non sono pochi questi casi, perché normalmente poi noi non reagiamo ma subiamo, e vedersi il proprio carnefice che gira e quindi lei è d'accordo sul fatto che alla fine chi si pone in maniera epica verso una giustizia, anche se sommaria, anche se in civile, diventa quasi un eroe per tutto questo sommerso. Ha una mia vicinanza psicologica, emotiva, non so come dirle. Questo sì, perché qualche cosa, almeno io avendo vissuto questo caso, perché è una persona che conosco, che mi ha molto colpito. E capito, guardi, questo caso la chiameremo privatamente perché ci interessa sentirlo, questo edicolante che vive nel terrore, che ha venduto l'edicola perché è stato picchiato ingiustamente. Quindi lasciamo sospesa l'analisi del suo caso, che però è stato interessante. Virginio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Dunque, io prima di iniziare a raccontare qualcosa di me voglio dire che ha tutta la mia solidarietà colui che ha ucciso quell'assassino, perché quello per me è un assassino. Io sono papà di un medico che si è fermato per soccorrere in un incidente stradale 4 anni e mezzo fa sulla Napoli-Roma, e questo camionista ha ucciso mio figlio e uno di 26 anni che si era fermato per soccorrere. Mio figlio ha messo in sicurezza gli incidentati, è stato travolto da un tir e si è incollato 6 macchine in sosta. Le perizie dicono forse ha perso il controllo perché non era né drogato né ubriaco. Ha preso 6 anni con la condizionale. E che devo dire, è la giustizia che come pene fa pena, come pene fa pena, cioè è la giustizia che muove l'individuo a vendicarsi, perché non riceve la giustizia giusta per punire certi individui, ha capito? Lei in qualche maniera come si pone fronte a questo episodio? Si sente, anche se non condivide, rappresentato? Il comunque coraggio che mi sentivo un pochino assassino l'avrei fatto anche io questo, guardi. Mi smuove anche a me qualche cosa del genere. È molto chiaro, è molto chiaro. Claudio Riseri, ho voluto che lei ascoltasse la reazione del nostro pubblico per riportare un po' una riflessione che ci tengo di fare con lei. Ripeto ancora, il gesto epico in questo particolare momento della nostra società riscuote comunque consenso, al di là del suo portato etico, del suo portato morale, della condivisione dell'opportunità. Comunque chi compie un gesto epico estremo diventa, non voglio dire la parola estrema, quasi un eroe. Dai messaggi, dalle telefonate, in fondo rappresenta il senso di un'ingiustizia profonda. Ma Nicoletti, io non lo vedrei solo come gesto etico. Qui il fatto è che una delle ragioni della costituzione dello Stato è proprio che lo Stato si assume il monopolio della violenza e della giustizia. Quindi lui fa giustizia rispetto agli atti di violenza compiuti, che non vuol dire che deve ammazzare chi ha ammazzato, ma deve però istruire chiaramente dei procedimenti, dare dei segni di partecipazione alle persone che sono state ferite, che c'è uno Stato che si sta occupando. Si fa garante dell'ordine sociale dicendo ci sono io se qualcuno sbaglia. Sì, io sono la giustizia, la faccio io, non preoccupatevi, vi garantisco, sono qui con voi. Io ieri, prima di fare questo pezzo, ho visto le agenzie, dicevano per la verità che non c'è un atto formale che incolpava questo giovane di qualcosa. Ci sono stati degli interrogatori, delle pratiche giudiziarie che hanno ancora più esasperato questa persona, che certamente forse era già esasperata. Poi penso in un centro piccolo come Vasto, relativamente piccolo, vedersi tutti i giorni davanti la persona che ha ucciso tua moglie. È difficile, è abbastanza difficile. Anche come psicoterapeuta, effettivamente è difficile. Noi non possiamo chiedere alle persone di essere degli eroi, di essere appunto dei filosofi stoici come Marco Aurelio, che dice ma no, che cos'è questo rispetto al tutto. No, questo qui ha perso una cosa che ci aveva messo più di 30 anni a costruire, una famiglia, un matrimonio, una donna amata. È moltissimo. Quindi è sono moltissimo. Segnali, professor Riseri, di cui qualcuno dovrebbe tenere conto. Non tanto l'episodio in sé dell'omicidio, che è ormai appannaggio della giustizia, anche lui, ma la reazione generale, non dico di consenso, ma non di deprecazione tout court dell'omicidio. È fondata sul fatto che qui viene a mancare una delle funzioni, la funzione su cui lo Stato è costruito. È lì per garantire la giustizia all'interno della comunità. Grazie, grazie professor Risè. Carmelo, velocemente, Carmelo, così diamo anche l'altro aspetto dell'informazione che manca. Carmelo, buongiorno. Carmelo? Sì, pronto? Il suo punto di vista su questo bisogno. Il mio punto di vista è questo, avevo già anche mandato un messaggio, è una mia opinione modestissima. Si è fatto l'omicidio stradale per accontentare tutte, perché l'Italia è fatta di sempre emozione, sempre di correre a fare, accontentare l'uno e accontentare l'altro. E si è fatto l'omicidio stradale, bastava fare niente. Se io ho un coltello, serve per tagliare la carne, per sbucciare le patate, per fare questo. Se io lo stesso coltello lo uso e ammazzo una persona, giusto? Sì, però scusi, l'omicidio stradale è una maniera per dare delle maglie ancora più strette per punire e compiere questo omicidio. No, non è vero, perché basta, invece di stare tutti questi anni a ribattarsi sull'omicidio stradale, che poi abbiamo visto che le opinioni dei politici sono state le più svariate. Ma le opinioni dei politici non contano molto, conta il fatto che le pene si sono inasprite comunque. No, ma bastava soltanto configurarlo come omicidio, punto, e basta. È un omicidio. Se ho la macchina, è un mezzo di trasporto, all'improvviso lo trasformo in un'arma, perché passo col rosso, cammino a 150 all'ora. È come se usassi in maniera impropria un qualsiasi oggetto per uccidere una persona. Perfetto, esatto. Allora, fermiamoci un attimo. Abbiamo l'avvocato Gianmarco Cesari che ci sta ascoltando al telefono, che ricordo è l'avvocato dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, è la persona che più si è battuto per l'approvazione della legge sull'omicidio stradale, che ci darà anche il tassello che manca a una riflessione approfondita a questo episodio, è quanto ha a che fare comunque l'omicidio stradale con questa vicenda. A tra un istante. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, parliamo dell'episodio di Vasto, dell'uomo che ha ucciso, colui che uccise sua moglie attraverso un omicidio stradale. Abbiamo l'avvocato Gianmarco Cesari che ci dà qualche elemento in più per capire questa vicenda. Partiamo dall'ultima telefonata, il signore che dice, ritorna sempre con la solita vicenda, che l'omicidio stradale in realtà non serviva. È convinto che è servita, anche se poi non ha avuto l'esatta scrittura che voi vi auguravate, questa legge? Guarda, la legge dell'omicidio stradale è servita perché intanto ha già abbassato il numero dei morti e dei feriti sulla strada, e questo ne dimostra l'efficienza. La gente sta un po' più attenta, ecco. Ecco, la gente è molto più attenta e più responsabilizzata. Ma a luglio, quando avvenne questo fatto a luglio, diciamo, non rientrava ancora, diciamo, nella nuova legge? Sì, a luglio sì, perché la legge è entrata in vigore il 21 marzo dell'anno scorso. Ecco. E c'era stato anche un rinvio a giudizio. Ma è indubbio che l'elemento scatenante della disperazione e della vendetta di questa persona sta nella sfiducia della giustizia, che è stato dato dallo stato di libertà dell'omicida di sua moglie, libero di circolare nonostante l'avvenuto omicidio. Però scusi, se la legge dice che non ci sono gli elementi per tenere una persona in detenzione... No, è ovvio, però vedi, a livello del cittadino, chi uccide in teoria dovrebbe... stare in galera. ...stare delle misure di protezione che impediscano di circolare, e questa è la sospensione della patente. A tante volte questa sospensione della patente non c'è, per cui le persone uccidono e circolano liberamente. Ma il problema del caso di Vasto è da inquadrarsi in una sfiducia nella giustizia derivante da anni di mancata giustizia a cui la legge dell'omicidio stradale ha posto argine, ma soprattutto nella solitudine esistenziale, nella mancanza di un'effettiva assistenza e quindi, per essere più precisi, riprendendo le parole dello psicologo, nella sottovalutazione della vulnerabilità delle vittime della strada e nel mancato perfezionamento delle forme di protezione e sostegno non solo all'interno del processo penale ma anche all'esterno. Vedi, c'è una direttiva del 2001 seguita da una direttiva del 2012 europea, la numero 29, che imponeva allo Stato di intervenire per delle tutele non solo processuali ma anche extraprocessuali. Invece l'Italia, lo Stato italiano, con il decreto 212 del 5 gennaio, che risale un anno fa, ha provveduto solo alle tutele processuali, Quindi chi... Vediamo di capire però, avvocato. Ecco, le tutele... Mettiamo sì, quali sono? Non è più solo, ma sono pochissimi, che addirittura pochissimi che non sfuggono a un fenomeno predatorio delle vittime da persone senza scrupoli che mirano al risarcimento del danno per lucrare onorari. Manca un intervento dello Stato di protezione delle vittime al di fuori del processo. Però non è scritto, l'Europa. Nella legge non è scritto. No, non c'è, non proprio, non, la legge non è stata, la direttiva europea non è stata attuata. Il decreto 212 del 5 gennaio ha provveduto ad attuarla solo per le tutele processuali. Dopo 5 anni, ad oggi, le vittime della strada sono sole. Lo Stato non le assiste. Avvocato Cesari, allora, se fosse stato ottemperata questa indicazione europea, cosa avrebbe avuto questo uomo? Cosa avrebbe avuto? I centri nazionali di assistenza per le vittime, a cui noi, come Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, facciamo da supplenza in una mancanza di un intervento dello Stato. Noi facemmo una riunione di tutte le associazioni delle vittime, non solo quelle della strada, dove chiedevamo tutti insieme nel 2005 addirittura al governo di istituire questi centri di assistenza. Abbiamo insensibilizzato addirittura tutti gli ordini degli psicologi tramite il loro consiglio nazionale di intervenire. Non si può lasciare purtroppo l'assistenza alle vittime della strada ad essere lasciata solo su base associativa. Chi ha la fortuna di rivolgersi sin da subito all'associazione che è formata da vittime, per le vittime trova protezione, trova sostegno, incontra altre persone che hanno subito la stessa vicenda, ma la maggior parte, migliaia di persone sono lasciate sole e, credimi, senza assistenza psicologica, ma soprattutto prede di persone che mirano solo al risarcimento e non vanno a considerare la situazione di disagio esistenziale, di solitudine esistenziale in cui si trovano le vittime. C'è da dire che in effetti Fabio Lello però ha avuto la solidarietà della sua città, hanno fatto cortei, manifestazioni, striscioni per ottenere giustizia. Sì, ma avrà avuto questa persona invece della vicinanza, soprattutto un sostegno psicologico? Io penso di no, perché se avesse avuto un sostegno psicologico, che è quello di cui come associazione è la prima cosa che ci preoccupiamo appena succede l'evento, dare sostegno psicologico, sicuramente sarebbe stato dissuaso dal gesto omicida che ha poi compiuto. Però questa questione dell'applicazione della direttiva europea per la protezione delle vittime è una questione che lo Stato italiano non sta affrontando dal 2001 e purtroppo stanno nascendo centri di supplenza su base volontaria, perché manca una legge di attuazione della direttiva europea. La legge che c'è riguarda solo il processo, non quello che succede al di fuori del processo. E poi la pena. Vedi, noi adesso stiamo chiedendo pene, ma la macchina della giustizia sta funzionando in ritardo. Io oggi sono a Perugia, oggi in aula di Tribunale Penale a Perugia, per un fatto addirittura del 2015, siamo stati rinviati al 14 settembre 2017, perché il giudice non c'è, perché il giudice che doveva iniziare il processo penale è andato in un altro incarico e manca un giudice che possa assumere questo processo. Questa lentezza dei processi è chiaro che è fonte di disagio, è fonte di sensazione di abbandono, quindi ci vuole serietà e rigore. I reati contro la persona si devono assicurare corsie preferenziali in modo che i cittadini abbiano di nuovo e riconquistino una fiducia verso la giustizia, verso lo Stato. Fiducia che ad oggi non c'è. Sentiamo Alessandro velocemente. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, chiudo la radio così mi sente meglio. Sì. Senta, io sono l'uomo della strada. Francamente, dottor Nicoletti, credo che ci sia anche da fare una specie di analisi dell'episodio. Non tanto sotto profilo giuridico del codice della strada, ma il sentimento che quest'uomo ha sentito ferito e la vendetta che ha perpetrato. Tra l'altro, secondo me... L'abbiamo fatto nella prima parte di questa trasmissione, non so se ci ha seguito. No, purtroppo... Eravamo con uno psicologo, professor Risè, questo abbiamo fatto, quindi l'abbiamo già anticipato. Antonio. Sì, buongiorno. Un minuto. Intanto do ragione perfettamente all'avvocato, eccetera, ma se capitasse un politico o un magistrato cambierebbe qualcosa, glielo dico io. A me l'hanno ucciso 21 anni fa un bambino e ho sono giurato che non credo a Dio da 21 anni, non sono giurato che se capita qualcos'altro alla mia famiglia, ok, ammazzo chiunque sia, o io loro. Dovete passarci per capire le cose, dovete passarci. La legge fa schifo, la magistratura fa schifo in Italia, perché non si può condannare. Come gli hanno ucciso? Come gli hanno ucciso suo figlio? Come è stato ucciso suo figlio? In ospedale. Hanno sbagliato tutto in ospedale. In ogni caso è capitato. Io dico una cosa, si fondano le famiglie che capita questa cosa, quali capitano queste disgrazie, fondano le onlus, le fondano per stare bene. Io faccio parte di aiutiamo bambini down, c'è le prolesi con problemi eccetera. Abbiamo portato degli alimenti alla matrice recentemente. Vabbè, auguri eccetera. Adesso, sì, questo... mi fa molto piacere. La Zile dice che è finito. È un altro argomento, un'altra storia. Da ogni storia poi nascono tante altre. Questa l'abbiamo trattata nei limiti delle nostre possibilità. Alla prossima.